Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Ce l'ho seduta qui accanto a me e la sto osservando. L'osservo da quasi un'ora. Ha due telefoni, nulla di strano per due telefoni. Tutti hanno due telefoni o molti hanno due telefoni. Chi non ha due telefoni ha un telefono con la doppia SIM. Però è l'uso di questi due telefoni che mi sorprende. È un uso sincrono. È un uso speculare. Quello che fa con un telefono fa esattamente con l'altro telefono. Fa una telefonata, parla con una persona, intuisco che sia un uomo, spegne la telefonata e con l'altro telefono fa una telefonata quasi identica. Manda un messaggio, manda lo stesso messaggio anche con l'altro telefono. Si fa un selfie, si fa un altro selfie con l'altro telefono. È come se questa persona avesse una sorta di relazione sdoppiata. È come se lei si producesse contemporaneamente con più persone negli stessi gesti. Non posso fare a meno di domandarle cosa accade. Che stai studiando, il menù per pranzo? Sì. Cosa pensi di scegliere? Ho scelto i tortelli al cacio di Morolo con carciofi croccanti. Ma di solito chi ti invita a pranzo? Di solito non mi invita nessuno perché lavoro, oggi invece non lavoro, è il mio giorno libero. No, me lo domando perché una donna così attenta al menù probabilmente ha sempre qualcuno pronto a invitarla da qualche parte. No, sono attenta al menù perché mi piace mangiare. Ma hai una persona fissa che ti accompagna a mangiare fuori? Veramente ne avevo tre, adesso ne ho due. Rido perché mi rendo conto di essere un po' anacronistica. No, perché anacronistica? Sei avanti nei tempi, anzi. Allora, vediamo un po', vediamo come hai organizzato la tua vita, perché mi sembra un caso interessante. Partiamo dagli inizi, partiamo dalla storia, capito? Sì. Tu sei nata poligama, no? No, assolutamente no. Sono nata come credo che nascano tutte le donne, cioè da sole. Per essere amata e per amare un uomo solo, insomma, credo. Sì. Finché dura. E quanto l'hai amato un uomo solo nella tua vita? Tanto, finché non se n'è andato con un'altra. E dopo quanto tempo di amore? Dopo circa 17 anni. Ma eravate sposati anche? Sì. Quindi diciamo, t'ha mollato il marito e sei rimasta malissimo? Beh, sì. Ci rimani male, soprattutto quando scopri che la donna che ha preso il tuo posto è più giovane, più soda e più... Vabbè, se era più vecchia ti facevi delle domande più insidiose, più giovane è normale, amen, peggio per me, che devo fare? Poi ti perde anche un po' lo smalto, la complicità che si ha sessualmente, quindi è normale, beh, insomma io l'ho superata questa cosa e mi sono rifatta con gli interessi. E come è accaduto il cammino di resurrezione, attraverso quali fasi si è svolto? È carino il cammino di resurrezione. È capitato che poi tutte le amiche ti invitano, ma vieni, c'è una cena, c'è un amico da presentarti. E così mi sono rimessa, tra virgolette, in gioco. Si ricorda ai signori passeggeri che nella carrozza 8 è attivo il servizio di ristorazione. Mi spieghi una cosa, chi sono questi uomini che hanno le amiche e ti presentano altre amiche? Io ti giuro, 60 anni non mi è mai successo. Mi sono sempre dovuto con il macete e con le bombe a mano aprirmi il terreno e conquistarmi io. Non ho mai avuto un'amica che mi chiama a una cena, ti presento altre amiche. Come mai questi uomini sono così fortunati? Che accade oggi? Perché la stragrande maggioranza di questi uomini che sono amici o amiche e quant'altro è comunque tutta gente separata o uomini che si sono appena lasciati e quindi sono in cerca di un nuovo flirt, di una nuova situazione. Allora c'è un meccanismo di sopravvivenza che le donne accoppiate fanno del bene alle loro amiche sole affidandogli dei residui di altre donne che hanno trovato altri uomini. Sì, in teoria è così. E quindi sì. Sempre una scartina si tratta. Sì. Esatto, e quindi sono andata a una cena dove ho conosciuto questo uomo che era rimasto vedovo e ho iniziato a frequentarlo in maniera così simpatica, un aperitivo, una volta un cinema, e poi è iniziata questa. Lui aveva già elaborato il lutto, immagino, se no non andava alle cene per rimediare altre donne. No, già aveva elaborato il lutto e proprio perché lo aveva elaborato si era rimesso in discussione, giustamente, 42enne. Su piazza, oggi poi è una merce rara, un uomo 42enne libero, molto difficile. Quindi è iniziata con lui. E il primo, beh, questa rientra nella norma, scusa. Tu eri libero, lui era libero, vi siete fidanzati. Sì. Poi a un'altra cena dove sono andata senza di lui, doveva venire anche lui, lì ho conosciuto quest'altro uomo invece che era fidanzatissimo, però era stressato perché questa sua donna gli rendeva la vita difficile, in quanto gelosissima, in quanto lui molto affascinante. E proprio perché affascinante io non gli ho dato corda, cioè l'ho trattato come se fosse invisibile. Lui di questa cosa l'ha notata e quindi poi il giorno dopo ha chiesto alla mia amica il mio telefono, mi ha chiamato e ho cominciato a frequentare anche lui in maniera un po' così, se mi va sì adesso no, non ho da fare di meglio, non vengo, e proprio perché si è sentito non bellissimo ai miei occhi mi ha tartassato per mesi facendomi una corte meravigliosa, mai ricevuta una corte così, e ha vinto naturalmente come sempre, e naturalmente accade, certo. L'ho premiato perché andava premiato, chissà perché poi c'è questa cosa che le donne danno il premio, gli uomini sono sempre cagnolini lì con la lingua di fuori, voglio l'osso, il premio è reciproco, penso, no? C'è ancora questa idea, vabbè, sì, no. Gli hai dato il premietto, l'ho premiato per la sua tenacia, ecco, diciamo bene, così va bene, l'hai fatto contento e continui, sì, a farlo contento? Sì, assolutamente sì. E quindi siamo già al numero due. Esatto. E questi due sanno niente dell'esistenza dell'altro? Fino a poco tempo fa, fino a 7 mesi fa, no, non sapevano, nessuno dei tre sapeva dell'esistenza. Siamo a due, il terzo ancora non me l'hai detto. No, non ci siamo ancora arrivati. Cominciamo con i primi due. Tu hai gestito intanto due persone come se fosse un marito e un amante, più o meno, la stessa cosa. Sì, diciamo di sì, sì. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Ma uno aveva ruolo, cioè penso quello affascinante, il ruolo del divertimento, dell'amante. No, quello affascinante aveva il ruolo di quello che ha i soldi e quindi ti concede i weekend meravigliosi in alberghi da 5 stelle, lusso e quant'altro. Vabbè, grazie, tutti siamo capaci di essere affascinanti. Certo, così. Però lui c'ha i soldi. Sì, sì, vabbè, mica è un limite, però grazie. L'altro invece era la persona intellettuale, mi portava alle mostre, ai musei, a quant'altro, agli eventi, a serate meravigliose al Parco della Musica, all'Auditorium, quindi no, sì, tipo, no, posto da, più... tipo posto da cornutoni, però, perché uno va lì, fa due chiacchiere, ascolta la musica, poi ognuno a casa sua con l'autobus, dai. Poi? E poi è arrivato il terzo. E il terzo come è arrivato? No, sono andata a rinnovare il passaporto e ho conosciuto... Un poliziotto. Sì, un poliziotto che c'è stata da subito... una forte attrazione fisica, lo capisci? Non so spiegartelo. No, lo capisco bene, ti si comincia a ribollire la natura, ti viene la sudata, ti tremano le mani, non sai più come ti senti improvvisamente, capita anche agli uomini, Sì, infatti è capitato anche a lui. Ti batte il cuore e così e dice, capisci? Questa è chimica, è chiaro. Io, grazie al rinnovo del passaporto, poi dopo diverse settimane me lo sono ritrovato sotto casa, quindi sapeva tutto di me, sapeva chi ero, dove abitavo. Beh, è un poliziotto, non è che ci ha messo tanto. No, non ci ha messo zero, è stato facile, ha giocato in casa. E tu l'hai fatto salire? No, anche lì l'ho frequentato, perché io prima li frequento. Prima li frequento, l'ho frequentato. Ti piace l'uomo frollato, devi farlo un pochino cuocere nel suo brodo. Diciamo. Bravo, bravo. Cioè, concedersi subito non vale, no, non vale. Vabbè, c'ha il suo fascino. C'è sempre un momento d'attesa, anche perché le cose consumate tutte subito. Beh, anche so perché c'è un'agenda un po' difficile a incrociare. Non è che tutto. È uno che viene sotto casa tua, fammi salire. Tu magari in quel momento c'è il numero 2, il numero 1, non può entrare il numero 3, no? Infatti. Allora adesso diciamo ne gestisci 3? No, ne gestisco 2. E chi è che è uscito dal giro? È uscito fuori il vedovo. Eh beh, poraccio, beh. poveretto, era quello. È uscito fuori il velo, quando io sono uscita l'ho scoperto, non ne potevo più. Gliel'hai detto, guarda, io me ne faccio altri due oltre te. E lui cade. Ma no, perché il vedovo dice: non mi chiami mai per nome, mi dici sempre amore o tesoro. Certo, perché non potevo certo chiamarli per nome, quindi tesoro, amore. Dice, ma perché non dici mai il mio nome? E allora dico, vuoi la verità? E gliel'ho detta. Inizialmente chiaramente pensava che io stessi scherzando, perché quando dici la verità dall'altra parte non ci crede nessuno. E poi al mio invito, se vuoi te li presento, lui è andato giustamente su tutte le furie. Che ha detto? No, ha detto no, la nostra relazione finisce qua. Vabbè, era un uomo di principio, per lui era una cosa seria. Sì, prova a dire, era il corrispondente di un marito, lui praticamente, sì. Sì, sì, evidentemente. Ma tu sì. vivevi con lui, no? Vivevate ognuno a casa sua? No, ognuno a casa propria, io vivo per fatti miei, non voglio. Quindi non era una coppia, diciamo, idealmente, ma non avevate una convivenza, quindi alla fine non si può nemmeno lamentare più di tanto, no? Infatti. Lui più volte mi ha chiesto di andare a vivere con lui, ma io non ho mai voluto. Che sennò come facevi? Si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria. Ma come facevi a gestire, diciamo, il terzetto? Perché non è facilissimo, la settimana è fatta di 7 giorni. Sì, però la settimana è vero, è fatta di 7 giorni, però uno a volte adduce degli impegni di lavoro familiari. Ma te ne capitavano due insieme lo stesso giorno? Gestivi anche? No, questo no, ho fatto sempre in modo che non capitasse, no, perché altrimenti veramente c'è da diventare come Dr. Jekyll e Mr. Hyde, no. Beh, però un giorno di distanza necessariamente sì. Sì, un giorno di distanza sì. Però ognuno di loro tre mi dava un qualcosa che all'altro mancava e quindi per me era perfetto. Io mi sentivo la donna più appagata, più realizzata. Ma c'erano degli, diciamo, le feste canoniche, le domeniche, i Natali, le Pasqua, i viaggi. Come gestivi questa roba qua? Le feste canoniche ognuno le passa in famiglia propria, Natale e quant'altro. Certo. I viaggi, a seconda di come fioccavano le prenotazioni, io dicevo sì a uno piuttosto no all'altro. E cosa dicevi? Impegni di lavoro? Impegni di lavoro, questa settimana ho i miei figli e quindi non posso venire. Però devo dire che le mie bugie sono sempre state credute, nel senso che avendo comunque gli impegni miei familiari del precedente matrimonio, capivano. Sì, avevi un margine di vita tua che potevi gestirti. Esatto. E gli altri due sapevano invece, diciamo, l'affascinante ricco e il poliziotto sapevano che tu comunque gestivi una vita movimentata? No. Quando sono uscita l'ho scoperto e l'ho voluto fare io, sono convocati entrambi insieme in un ristorante, li ho fatti venire dando la convocazione più o meno alla stessa ora, si sono materializzati e quando mi hanno visto dice lui chi è? E lì ho detto tutto, ho scelto il ristorante perché così non potevano fare scenate, almeno anche speravo. Il poliziotto tirava fuori la pistola, era pericoloso. E alla fine è andata bene, pensa che sono diventati persino amici, sono felicissimi. Nessuno detta delle regole, nessuno impone situazioni, nessuno. Cara mia, guarda che se uno non è innamorato e non ha un principio di possesso, che ti importa? È una persona che ci esce per sollazzo. Gianluca, ti sbagli, perché sì. Tutte e due sono innamorati. Adesso dai. Te lo dico, me l'hanno detto. Adesso io ti dico ti amo, pensi che è vero, ma no, che vuol dire? No, non è il ti amo, dirlo a parole è facile, dimostrarlo che è più difficile. Loro lo dimostrano quotidianamente, sempre lo dimostrano. Ma allora trovi una scuola che ti ci sollazzi, non ti chiede niente in cambio, non devi dargli nulla e ci vai quando vuoi, stai tranquillo, allegra, simpatica e non ti dice mai che sarà poi di noi, via dicendo. È una cosa unica. È una cosa unica. Tu adesso una persona mi dà una cosa e l'altro me ne dà esattamente l'opposto. Sì, ma adesso ti mancherà qualcosa, eri abituata a 3 e ora ti accontenti di 2. No, sto bene così. Sai Gianluca, la mia grande forza è che io non chiedo mai niente a nessuno, non chiedo. Ecco, loro quindi posso fare quello che voglio, naturalmente. Sì, ma io so per certo, la mano sul fuoco non ce la posso naturalmente mettere, però io so per certo che loro altro in giro non se lo cercano. Ripeto, io la mano sul fuoco non ce la posso mettere, però insomma dai discorsi che loro fanno non hanno la necessità di, anche perché in giro non c'è tantissimo. No, di donne ce ne stanno a bizzeffi, ci sono pochi uomini. Pure troppe, però donne disponibili, quante ne vogliono? Vogliono i figli, vogliono la casa, vogliono il viaggio, vogliono un anello. Invece io figli non ne voglio, casa non mi serve, l'anello benché meno, e quindi sono perfetta. Solo per il piacere. Solo per il piacere. Sì. Sei cambiata da quando ti sei andata con l'abito bianco di fronte al sacerdote, con l'uomo a pensare per la tua vita, a oggi che vivi in maniera così disinvolta, proprio come femmina, come sei cambiata? Tendenzialmente sono cambiata nel fatto che sono diventata più padrona del mio corpo e riesco a gestire, cioè io sono padrona di me stessa, non mi devo più far comandare da nessuno, e questa è una sensazione bellissima, sentirsi se stessi. Non, questo non vuol dire che tanti inizialmente mi hanno giudicato, sei una di facili costumi. Vabbè, adesso facile costume per due, esageriamo. Quindi, però il fatto nella media, che dai, io riesco a gestire la mia sessualità, i miei sentimenti, senza dover togliere innanzitutto niente a me stessa, perché il numero A mi dà, io li chiamo Abby, no, adesso con te li chiamo Abby. A mi dà delle sensazioni che B non mi dà. Ma da cosa dipende questo? Capacità, struttura morfologica, da cosa dipende questo cambiamento di sensazione? Ma sicuramente nel mio caso con l'età, perché io ho 43 anni e quindi... Cosa dà la differenza? Il fisico, uno è più bello, l'altro meno bello, uno è più fantasioso, l'altro meno fantasioso. Uno... Sì, diciamo su questo, uno è più fantasioso e l'altro è meno fantasioso. Il poliziotto è quello che io adoro perché è quello che sessualmente mi appaga. Vabbè, c'ha le manette, c'ha tutti i manganelli, c'ha tutto quello che serve. No, ogni volta è uguale, non è mai la stessa cosa. Una volta è meccanico, una volta è muratore, una volta si traveste. Io ho anche un codice comportamentale, se questo può. Dimmi, questo è importante. Cioè... Io non ho mai rotto le scatole a uomini sposati, né tantomeno quelli fidanzati. Infatti, A, che è quello con i soldi, il fascinoso, il bello, quando mi corteggiava, io lo sapevo, era fidanzatissimo. E non ho ceduto finché lui non ha mollato l'altra, cioè dico o io o lei. Ah, ecco, tu pretendi. Non fai la rovina famiglia, ecco questo. No, questo no, no. Vabbè, questo già libero, mi sembra un'ottima scelta. No, perché mi metto nei panni dell'altra, visto che io ci sono passata in prima persona. Questo è giusto, no. Beh, un po' di etica ci vuole, poi giusto, gli sposati se ne stiano in casa, mi sembra sacrosanto. Mi sembra fantastico la tua scelta di vita e mi sembra che il menù che stai scegliendo è ben poca cosa rispetto a ciò che tu sarai capace di apparecchiare A e B e poi verrà C, D e F, G. Chi lo sa, non lo cerco. La fame viene mangiando, mia cara, te lo dice una persona anziana ormai al di fuori di ogni tentazione. Buon viaggio, ciao. Grazie, ciao. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Ho osservato a lungo quel signore, vestito in maniera retro, ragazzo giovane, un bel ragazzo, però non so, con una tenuta a metà fra l'esploratore e lo scienziato. Sembra quasi imitare quello stile che oggi chiamano steampunk, che rappresenta signori vestiti con foggia ottocentesca, ma che hanno delle passioni tecnologiche che in realtà vanno oltre i tempi che stiamo vivendo. Un paradosso spazio-temporale, com'è un paradosso spazio-temporale voler infilare una testa di cervo impagliato nella cappelliera del treno. Non c'entra, o c'entra, o alla fine riesce a stare in precario equilibrio con le corna maestose che incombono sulla testa dei passeggeri seduti sotto. E quindi vado da lui e gli domando cosa mai facesse in quello scompartimento proprio nel momento in cui passavo io. Come capita che è possibile incontrarti in treno con magari, non so, un animale impagliato accanto? Sì, può capitare, oddio. Cerco di non spostarmi in treno quando raccolgo pelli o animali balsamati, cerco piuttosto di usare mezzi più grandi, anche perché spesso si tratta di animali molto grandi. L'ultimo che mi è capitato è proprio un elefante maschio adulto, l'oxodonte africano, molto grande, con tutte le zanne. Quindi... E come ti entra in casa un elefante impagliato? No, non mi entra in casa perché ho una galleria, per fortuna, nel centro di Roma, vicino Circo Massimo. Non ti bastava più casa per riempirla delle tue stranezze? No, casa non mi bastava più. Quindi no, è un luogo dove puoi mettere fino a un elefante, è un museo praticamente. Sì, è un piccolo museo ricco di tassidermia, di oggetti curiosi. Mi interessa le Wunderkammer, che sono quelle, le stanze delle meraviglie. Ecco, ma esiste un genere di quello che tu racconti? Tu sei un raccoglitore generico o segui un tuo percorso? Le tue meraviglie, no, cosa vanno a toccare? Animali feroci, impagliati, avanzi di antiche civiltà, oggetti singolari? Sì, diciamo che si raccoglie tutto all'interno della cultura delle Wunderkammer, che in realtà raccoglievano cose curiose più che altro, strane, bizzarrie, tutto, tutto il mondo. Però lo sai che oggi cultura... il concetto di curioso cambia, oggi tutti vediamo tutto. Chiaramente, infatti è un mondo che non si stupisce più. Io per questo ho anche questo desiderio di dimostrare delle cose che in realtà sono anche esotiche spesso, quindi vengono da paesi lontanissimi, culture dimenticate. Proprio l'altro giorno mi è capitata una spada di tagliatesti, di tagliatori di teste del Borneo. E quindi è una cultura anche quella molto, cioè, mi è piaciuta perché è molto lontana da noi, sono cose un po' dimenticate, perciò... E com'è fatta la spada per tagliare le teste, o sei particolarmente... Sì, è una spada rituale, una specie di macete, rituale con pezzi di pelle attaccati e cranietti di scimmie come manico, molto molto strano, però affascinante, perché veniva usata da un grande guerriero, appunto, zona Borneo. Ma quelli che poi le rimpicciolivano pure, scusa l'ignoranza, oppure tagliavano, sì, e sì, basta. Sì, quella era un'altra pratica, le shrunken heads, come si dice in inglese, le teste rimpicciolite, era un'altra pratica, quindi tagliare la testa a un altro guerriero di un'altra tribù e poi rimpicciolirla e collezionarla. Anche quelle sono molto strane. Le teste tagliate ci sono, ne hai teste vere e proprie? No, quelle mi manca. Ho un cranio molto bello, antico. Da dove viene? Siano. Dal Fayyum, dalla zona del Fayyum in Egitto, dove si ritrovarono delle mummie, dei sarcofagi. Le mummie del Fayyum, famose, certo. Sì, famosissime anche per i ritratti del sarcofago stesso, che venivano dipinti a mano, molto belli, dopo il defunto, prima della morte. Però ecco, quella è l'unica, una shrunken head, effettivamente una testa rimpicciolita mi manca e vorrei tanto averla. Si informano i signori passeggeri che fra qualche minuto passerà in carrozza il personale del treno per offrirvi un piccolo spuntino. Dimmi altre cose strane che hai trovato, improbabili. Crani animali, anatomia animale, molto interessanti, ippopotami. Ho trovato anche molto bello qualche anno fa un uovo di struzzo che a quanto pare sia appartenuto a una nave pirata olandese che spesso faceva dei viaggi in Africa, quindi raccoglieva oggetti e tornava in patria a vendere. Ah, mi sto guardando, allora, ho trovato il sito dove sta un articolo che parla della tua... Camera delle Meraviglie, me lo sto guardando sul tablet. C'hai anche il serpente, il cobra che esce dalla cesta. Sì, un cobra indiano bianco, albino, bellissimo. Anche cos'è? Mummificato, sì. Sì, questo è sempre imbalsamato, è ficcato, diciamo. Questo non c'è un processo di imbalsamazione, credo, per le pelli di... E come fa a starsene in piedi, però, se c'è il fil di ferro dentro? Sì, c'è un fil di ferro. Esattamente, sì, come esce dal cesto dell'incantatore di serpenti. Sì, che quel cesto poi è originale dell'incantatore, che ho comprato in India, nel Rajasthan, nella zona del Rajasthan, molto bello, che è proprio quello che usavano i fakiri per incantare i serpenti. E c'è il cobra che esce. Ah, c'è un leone bellino, un leone che appoggia le zampe su un mucchio di libri. È simbolico. Sì, con sopra una scimmietta, non so se si vede. Ah sì, ecco, la scimmietta, sì, come mai? Sì, un colobus carina. Bella questa cosa. Carina. Ma cos'è questa composizione? Chi l'ha fatta? Chi l'ha pensato? Ma quella l'ho fatta io. Ah, è una tua idea? Sì, ma c'è un significato metaforico, il leone che sui libri della sta con la scimmia sulla testa? No, in realtà no, in realtà è solo perché quella scimmia ha un'anatomia molto giusta, molto che segue molto la linea del leone. Quindi se va fatta apposta per stare sul leone. Sembra fatta apposta, sì. Viene sempre dalla stessa collezione del museo, quindi dei parchi naturali da dove venivano prelevati questi animali. E li ho salvati per un pelo, altrimenti venivano proprio buttati via. Se c'è qualcosa di innominabile che vorresti avere, che daresti chissà che per avere, che sai che esiste ma non sai come arrivarci? Tipo la numero uno di Paperon de Paperoni, c'è cioè una cosa che per te è rara e importante. No, in realtà non c'è un solo oggetto che ricerco. Mi innamoro continuamente. Purtroppo il mio lavoro è sempre un amore continuo per cose. Ma quali sono i tuoi canali? Tu dove vai? Cioè, quando esci, dove vai a cercare le cose? Ormai ci saranno dei collezionisti, dei mercati. Ma parto spesso, sì, sono fuori. Giro molto. Mi piace molto girare. E quando giri, sai più o meno ormai a naso, sai qual è il posto dove potresti trovare questa roba qua? No, è difficilissimo, effettivamente è difficile. Mi muovo per fiere di antiquariato spesso, dove trovo cose molto belle. Ci sono anche delle fiere in Italia molto, molto divertenti, al nord Italia, come quella di Parma, che è una fiera di antiquariato molto divertente. Sì, ma tu non è che proprio necessariamente cerchi oggetti, cerchi la cosa singolare che può stare anche in un museo di antiquariato, ecco. Assolutamente sì. È il particolare che vai cercando. Sì, sì, sì, sì. però è molto difficile trovarlo, ecco, appunto, in collezioni private, almeno che non si conosce. I mercatini spesso ci sono cose, ma non valgono più, la gente ormai si documenta. Ma c'è anche una giraffa, sto vedendo. C'è anche una giraffa, sì. Però senza gambe, sì. Solo la parte sopra, se no non c'è. Sì, solo la parte sopra. Spesso le dividono, le attaccano, cioè le preparano in questo modo perché vengono attaccate da altri animali, quindi la parte sotto viene danneggiata litigando con altre bestie, perciò... Ah, quindi ecco, con rimane solo la testa, capito? Rimane solo la testa, si cercano di salvare il salvabile, ecco, la testa in questo caso. Ma tu se ricevi degli amici, delle persone, li ricevi nella tua Wunderkammer oppure, sì, come fosse casa tua? Sì, certo, sì, è un ambiente molto confortevole, molto accogliente. Quale sarà il punto d'arrivo? Cioè, o metti su o ti allarghi e fai una galleria di animali impagliati oppure inventi un percorso? E cosa deve essere questa cosa? Offrire un'esperienza sensoriale a chi l'ha vista? Esatto. O è solo per te? No, è offrire un'esperienza sensoriale, extrasensoriale, anche a ospiti, a persone esterne. Ospito tantissime scuole, per esempio ho avuto una scuola di bambini di classi elementari, è stato divertentissimo, c'erano tutti questi bambini interessatissimi alle cose, io spiegavo in maniera molto ludica. Cosa c'è? C'è una specie di mostro disseccato dentro una specie di bara, vedo le immagini sempre nel tuo sito. Sì, cos'è quello? È interessante, quello è un pesce diavolo, si chiamava all'epoca. Ma sembra un demone infatti. Sì, è un pesce diavolo, ma non è nient'altro che uno squalo violino essiccato e modellato a modi umanoide. Quindi doveva sembrare quelle bufale, per sembrare un drago, certo, dell'antichità, una cosa del genere. Esattamente, cosa che capita spesso. Un demone essiccato poteva sembrare, ecco, un diavolo essiccato. Sì. E invece si chiama pesce violino, squalo violino. Poi l'hanno messo dentro una bara con l'interno rosso. Sì, è stato un gran lavoro quello. Sì. Però purtroppo quello lì non ce l'ho più, l'ho prestato. Non te l'hanno più ridato? No, adesso ancora non. Ah, perché succede, presti le cose e non te le ridanno? Beh no, me le ridanno forse dopo tanto tempo, però cerco di prestarle, di farle girare per... Perché ci sono tante persone che hanno passione come la tua. Beh sì, in Italia no, e devo dire che in Italia c'è è una moda che sta in realtà riprendendo piede, perché non abbiamo mai avuto, io credo, questo è uno studio mio personale, del fatto che noi non abbiamo mai avuto tante colonie in giro per il mondo. Perciò non c'è mai stato l'interesse vero e proprio di portare l'esotico a casa, visto che non avevamo posti dove andare a ricercare. Mentre la Francia, la Germania e l'Inghilterra hanno avuto molte colonie sparse in posti anche più lontani, più esotici, le mode sono ben diverse. C'è stata una grande trazione verso... Beh, noi di cimeli africani abbiamo le case dei nonni strapiene, ma la fiera è sempre la stessa roba, c'era poco... Sì, esatto. C'è un cervello, il cervello di chi è? Il cervello di Sicca? No, cervello no, quella è una madrepora. Ah, ma sembra un cervello. Un corallo. Ah, pensate, sì. Sembrava un cervello sotto. Infatti si chiama madrepora cerebrina. Mi ero illuso per un attimo, c'avevi un cervello sotto teca. Un cervello sarebbe molto bello averlo, ma forse sotto formalina. Poi entriamo in un altro genere, vai. Ti ringrazio, buon viaggio, ti lascio stare. Grazie con i tuoi attrezzi, oppure poi l'animale essiccato alla fine prenda la strada dello scompartimento, poi sarebbe pericoloso. Alla prossima, ciao. Grazie a lei. Il treno va. Già a me sembrava strano di rispondere a lettere che raccontano vicende amorose da parte di giovani donne, o di donne mature, ma di donne che mi parlano in prima persona. Ma di diventare il confidente di una madre o la figlia in amore non avrei mai immaginato, o perlomeno, ora che mi rendo conto di esserlo diventato, devo fare i conti su ciò che mi rimane ancora da vivere, visto che ciò significa che sono ormai molto avanti nell'età e probabilmente nella percezione di chi mi ascolta, anche nell'esperienza. Questa donna già mi scrisse qualche tempo fa, sottoponendomi la vicenda di una figlia che aveva abbandonato una fiorente attività professionale per fuggire con un suo bel tenebroso in un'isola lontana a fare non so che, e oggi mi scrive per dirmi com'è andata a finire. Caro Gianluca, sono una madre che alcuni mesi fa si rivolse a te raccontandoti la vicenda di mia figlia. Brevemente te la riassumo. Mia figlia 26enne, dopo anni di studio e un agognato posto di lavoro ottenuto con determinazione in un'azienda di prestigio, si era innamorata di un 37enne istruttore di immersioni e dopo pochi mesi si era licenziata per raggiungerlo nell'isola dove lui vive di turismo. Sì, in breve ha mollato tutto ed è andata lì a fare la segretaria nella sua scuola di SUP. Ti dicevo nella precedente lettera che sapevo bene, ahimè conoscendola, che prima o poi si sarebbe stufata di passare inverni in un'isola senza distrazioni a parte il mare. Perché una cosa è innamorarsi d'estate, un'altra è convivere con una persona che si conosce poco. Insomma, sentivo di avere timori che qualsiasi persona con un po' di esperienza inevitabilmente avrebbe avuto. Concludevo la lettera chiedendoti di darmi qualche elemento per essere ottimista sulla sorte amorosa di mia figlia. Bene, ti scrivo per un inevitabile aggiornamento. Già dopo qualche settimana dalla sua partenza, il suo entusiasmo si era affievolito, ma non pensavo certo che la situazione sarebbe precipitata così in fretta. Mia figlia, che ha 26 anni e non 80, finita la luna di miele con il suo bell'istruttore nella loro casetta sul mare, ha presto cominciato a ritagliarsi i suoi spazi dopo il lavoro. Il pomeriggio o la sera aveva un suo giro di amiche con cui passava il tempo libero o andava a bere un aperitivo. Questo fatto non è piaciuto molto al 37enne, che ha cominciato a pressarla perché lei stesse più a casa, magari ad aspettarlo la sera con una cena preparata. Le ha fatto capire che vivere con lui non era come stare in vacanza. Ecco qui. Quella che doveva sembrare una vita all'insegna della leggerezza si è trasformata nell'opposto. Mia cara madre in apprensione per una figlia già grandicella che dovrebbe fare le sue scelte in autonomia a leccarsi le ferite dalle sue scelte sbagliate. Non posso che dirti che, tutto sommato, avevi ragione te, era nei fatti. Questo fantastico, tenebroso, atletico, bellissimo, pirata, corsaro, uomo senza limiti e uomo libero per natura, che viveva in un'isola, non so bene facendo cosa, ma gestendo un villaggio turistico, all'improvviso, quando la donna finalmente sedotta comincia a vivere al suo fianco, ci si rende conto quello che lui voleva. Altro non voleva che una schiava, altro non voleva che una donna che gli facesse la serva, altro non voleva che qualcuno che gli preparasse la cena perché lui al suo rientro la trovasse pronta. E poi perfino geloso, in un'isola dove in fondo in realtà è tutto è circoscritto, è tutto sott'occhio. Sua figlia non poteva nemmeno andare a prendersi un aperitivo con le amiche. Sì, perché doveva stare in casa. Manca poco che gli imponesse il burka per completare il suo quadro esotico. Mia figlia, che credeva di essersi affrancata per sempre dai tornelli dell'azienda, è finita per sottostare al giugo di un uomo troppo più grande di lei, geloso e possessivo e soprattutto tutt'altro che anarchico. Com'è finita? Che lei l'ha lasciato e ora, delusa e infelice, non sa che fare. Sta valutando se tornare in Italia da disoccupata o rimanere in quell'isola che, nonostante tutto, continua a piacerle e trovarsi un altro lavoro. Ma con quale prospettiva? Lei ora ha conosciuto indubbiamente la sua prima grande delusione della sua vita, per la quale ha sacrificato laurea e lavoro. E me ne dispiace, perché tristemente anche lei ha dovuto ammettere che il suo slancio d'amore non l'ha portata da nessuna parte. Ecco, la domanda che ora ti voglio fare è questa. Uno dice ai ragazzi sempre di seguire il cuore, di fare le scelte di vita assecondando le proprie passioni, perché, diciamolo chiaramente, se no, che si campa a fare? Eppure, ogni persona che abbia qualche decennio di vita alle spalle sa che quasi sempre proprio queste scelte fatte con passione sono quelle più ingannevoli e hanno la più grande probabilità di fallire. Io sapevo come sarebbe andata a finire, ma non aveva senso bloccarla e impedirle di partire, perché si cresce solo vivendo sulla propria pelle certe esperienze. Ma ora ho il problema opposto. Quando mia figlia mi chiama e scoppia in lacrime, come faccio a continuare a dirle di vivere con la stessa passionalità ed entusiasmo la sua vita? Dovrei dirle che non deve più buttarsi a capofitto in una storia? Che deve prendere bene le misure prima di fare un passo? Che deve essere prudente e attenta? Che anche in amore paga il calcolo e l'attenta valutazione dei costi e dei benefici? Vedo che lei continua a essere la confidente di sua figlia. Non so quanto ciò faccia bene a lei, ma soprattutto a sua figlia. Cosa vuole che le dica una madre a una figlia quando già ha avuto la tragica conferma della sua profezia? Rischia di pensare che tutto ciò che dice la mamma poi in realtà è una sorta di profezia di Cassandra, qualcosa che porta male. Non le racconterà mai più nulla sua figlia delle sue vicende amorose, per paura che il verdetto materno non sei altro che una profezia che sia tua vera, che tutto ciò che dice la mamma finisce, appassisce. È chiaro, ha avuto una bella scornata, è andata a sbattere contro una storia d'amore che è finita male. Ma seguire il filo della passione è sempre un rischio. Chi sceglie la passione piuttosto che la razionalità sa che rischia e corre fino al vertice ultimo di un precipizio, e sull'orlo estremo ci si rende conto che un passo ancora ci porterebbe alla distruzione. Sua figlia il passo indietro l'ha fatto, si è salvata dalla distruzione, adesso sta lì, si leccherà un po' le ferite, per orgoglio non vorrà tornare indietro, non vorrà affrontare il giudizio degli amici, delle amiche, dei colleghi che hanno detto «ma dove vai? Ma lasci una sicurezza per andare dove? Con chi?». C'è un attimo da ripensare quello che sarà il discorso che dovrà fare nel momento del suo grande ritorno, ma poi tornerà, sta tranquilla, tornerà, ricomincerà la sua vita lontano da quell'isola, lontano da quell'uomo che forse ancora le piace, forse ancora voglia dargli qualche assaggiatina, ma poi tornerà da lei, poi la lasci in pace, non le dia altri consigli, la lasci sbagliare in pace. Nessuno è morto per passione, o perlomeno quelli che per passione sono morti fanno parte ormai della schiera, del paradiso, degli eroi dell'amore, e quindi benissimo per loro e molto meglio per chi in realtà fa scelte basate non sui consigli materni, ma sulla propria dolorosa esperienza. I never thought that I could be so bold.